love it. I've been stealing Corvettes, stunning. Ooh, quiet, I'm set, run it. I've been fucked in the head, run it. I ain't leaving my bed, love it. The world's been killing me dead, stunning. Killing me, killing me, killing me. I just want to protect my energy. Ain't got no time for the frenemies. Eating my ass like a human centipede. Hold your horses, pick it up. What's better than two girls? 19:47 secondi, sta per iniziare la puntata numero 36 di Likewise qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, oggi 29 novembre 2022. Dalla Salica al Pinco per un'oretta di musica insieme, una scaletta da paura. Allora è vero che staremo ad ascoltare Remy Wolf fino alla fine, ma lo sapete che dura più di 3 minuti, a parte che la trovate sulle nostre playlist, dentro i podcast delle puntate precedenti, sempre tagliata. Però se voi vi andate a cercare la puntata numero 5, mi sembra, di Likewise, la trovate intera, perché l'avevamo messa appunto perché ci era piaciuta, l'avevamo sentita già. Cominciamo? Sei pronta? Non so, io sono pronta, chissà se sono pronte loro e tutti quelli che ci ascoltano. Benvenuti, bentrovati. Speriamo di farvi passare una bella ora piacevole ascoltando tante artiste e musiciste anche questa sera. Cominciamo da Grandma's House, How Does It Feel? Comme toujours, c'est la langue de l'amour. Comment quelque chose si beau peut tomber si facile à l'eau? Tu me manques, je te manque, je te donnerai ma langue. Quand je partis très très loin, c'est une chose que j'ai pas besoin. Tu me mettre au centre de la fête, mais en même temps, je peux être un con. C'est toujours les autres, mais jamais les nôtres. Les gens ils sont pauvres, c'est toujours les autres. Grandma's House, How Does It Feel? Queer punk trio da Bristol. No. Sì, non l'avessi mai detto. Mai. Jasmine Bent, Poppy Dodson e Zoe Zinsmeister al basso, e belle chitarre, bella batteria aggressiva, come piace a noi. Tutto aggressivo direi in generale, come è giusto che sia nel punk, dai. Giovane trio, hanno fatto l'anno scorso un primo EP che ha avuto un discreto successo. Sì, e porta il nome della band, quindi se lo volete cercare lo trovate così. Le ha portate in giro soprattutto per l'Inghilterra, ma insomma anche qualche data in Europa sono riuscite a collezionare. E adesso sono usciti questi due singoli, quello che abbiamo ascoltato e quello che avete in sottofondo, che probabilmente ci faranno... lo so, la speranza è quella sempre di un prossimo EP. Ma questa di sottofondo è Buddy? No, ecco. Il solito, non mette, mi cambia le canzoni, me ne mette altre. Era così per sapere. No, non è Buddy, che è l'altro singolo appunto che è uscito nei scorsi giorni. È un altro pezzo del loro primo EP, in effetti. Punk proprio, punk, senza, bah, sì, senza infatti, aggiungere altro. Esatto, non mettiamo fronzoli. Sono le 19.05, questo è Like Vice. Siamo partiti a bomba e arriveremo a bomba. Comunque arrivo fino alla fine. E qui davanti a me trovo Scarceranda. Quindi sappiate che l'agenda di Radio Onda Rossa, sostegno di Radio Onda Rossa del contro il carcere, è già qui. Quindi prenotate la vostra copia, venitevela a prendere, via dei Vosci 56. E mi guardi. Prossimo pezzo, vai, Jenny Lee, Clinique. Questa era Jenny Lee, Clinic, singolo. Cioè, mi ero talmente assorta nella canzone che non mi stavo accorgendo che era stava per finire. Singolo tratto dall'album che uscirà l'11 dicembre, indovinate un po', per la Rough Trade, manco a dirlo, che si chiamerà Tux. E quanto ci piacciono le Warpaint. Esatto, quanto ci piacciono le Warpaint. Tra l'altro stavamo ricordando fuori onda che abbiamo messo, quando c'è stato il lancio del disco, che poi è uscito anche questo a maggio di quest'anno, che non mi ricordo più come si intitola, Radiate Like This. Mm-hmm. Radiate Like This. E non le abbiamo più messe, quando invece noi a loro le adoriamo. E quindi mi sa che prima della chiusura dell'anno ve le ributtiamo lì tra le migliori uscite uscite forse dell'anno, o comunque saremo una scusa qualsiasi per metterle, per metterle. Sì. Parliamo delle World Paint, perché Jenny Lee, cioè Jennifer Lee Lindberg, è basso nelle World Paint, ma Si sente che la sonorità se la porta un po' dietro. Tra l'altro leggevo che il disco che è uscito dalle World Paint è uscito comunque in contemporanea con il suo CD, che è il suo secondo disco da solista. Esatto. Sì, perché questa cosa a noi ci piace molto, quando le band hanno anche dei percorsi personali, Inside, insomma, project, come si chiamava una volta, nei quali esplorano anche altre sonorità. E sicuramente la sonorità, cioè il basso, il modo di suonare il basso di Jenny Lee, che ci piace tantissimo, è quello, è abbastanza definito, però qui sperimenta un po' anche con la voce, con la scrittura e con, insomma, con quello che propone. Sia chiaro che i nostri B-side non sono dei veri B-side, nel senso che comunque molto spesso quasi dobbiamo tirare il dado per decidere quale delle due mettere come, diciamo, ascolto della puntata. Infatti adesso, risentendo la seconda, quasi quasi mi viene più voglia di questa, ma però c'è sempre un modo per recuperarla. Quindi Jenny Lee, secondo disco, anche lei da ascoltare. Se volete ascoltare anche le World Paint, fate bene, no, non ci opponiamo. Noi non ci opponiamo. 19:11 Apple Juice. Juice, Gretel and Lynn, tratto dall'album uscito a maggio che si intitola Slug Eye. Parlavamo in fuori onda. Sente intanto tracce. Sì, sette tracce. Intanto andatevi a cercare una bella serie che sta conducendo Jenny Beth, cantante voce delle Savages, che si chiama Icos, la trovate su insomma i vari social video. Chi sono le Savages? No, lo sanno. Che appunto ha ospitato in questa serie appunto proprio Gretel Hanlin in un live e anche in una piccola intervista in cui racconta un po' di sé, quindi insomma vi invitiamo, vi diamo anche un po' di input. Molto ne parlavo anche nel fuori onda anche di questo, che una cosa che ci ha colpito di questo album e di queste canzoni è questa voce molto particolare che ha Gretel, ed è interessante il fatto che lei comunque sembra navigatissimo, quindi io vi sfido, esatto, a dirci quanti anni ha secondo voi. Assolutamente. Non perché l'età serve, sia nel qualcosa, suono che però secondo me ha una maturità, esatto, sia stilistica che musicale, che dice no vabbè dai, c'ha 10 anni di carriera almeno. Esatto, invece no. E leggevamo in intervista che in realtà lei raccontava, siccome le chiedevano di questa voce, lei raccontava che in realtà questa voce è qualcosa che non, con cui non è nata, ha avuto una diciamo è stata ospedalizzata per molto tempo, per cui aveva perso diciamo la massa muscolare proprio della zona del diaframma per questa degenza, e quando ha diciamo uscita all'ospedale non riusciva più a cantare, quindi ha dovuto recuperare questa muscolatura e ha dovuto imparare di nuovo a cantare, e quindi ha cominciato a cantare in un modo diverso, quindi scoprendo dentro di sé un'altra voce che è quella che poi adesso usa. È di molto bella questa cosa. Sì, quando uno dice dalle casualità della vita provi poi a tirar fuori quello che c'è, non è di più né di meno, ma quello che c'è, quindi quello che puoi usare. E certo, io ho sentito molto spesso leggendo le interviste il nome di Nico, effettivamente qualche eco lontano. Sì, è vero. Beh, certo, questa tonalità greve, bassa, che non è tipicamente femminile, diciamo che non è esplorata da tantissime artiste. Sì, che sembra impostata, però in realtà quando ti viene naturale è molto particolare. Bella per te, esatto. Sì, esatto. Quindi Slug Eye, maggio 2022, 7 tracce, andate a cercare questo EP, secondo me è un ascolto piacevolissimo, anche perché veramente lei ha una voce molto molto bella e molto particolare. Tra l'altro, almeno questa è la cosa che mi accompagna fin da quando sono adolescente, mi piace ascoltare le voci femminili che non sono diciamo quelle che entrano soltanto nel classico mainstream, abbastanza diciamo anche inflazionato. Chi ha un uso particolare della voce, secondo me, tira fuori delle cose molto più interessanti, delle emozioni, delle sensazioni molto più interessanti. 19 17, c'è l'orario dietro di te, io invece ho la fortuna di avercelo davanti qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando Likewise, questa è la puntata numero 36. Abbiamo delle novità, le vogliamo dire? Diciamole. E dai, vai. Diciamo. Abbiamo aperto un canale Telegram, così chi vuole, che non so, ma si può dire cercare e si trova? Perché questo mi sfugge, sì, dalla tecnologia. Sì. Cercatelo, Likewise __ per noi comuni italiani. _TRX, che sarebbe trasmissione, che questo comunque è un acronimo che non è italiano ma va bene per noi, e cercateci se volete unirvi al gruppo. Promettiamo di non essere molto invasive con 100.000 messaggi al giorno, però ci piacerebbe avere un contatto più veloce, anche rapido, con voi che ci ascoltate. Anche se avete suggerimenti, mandateci artiste, canzoni, e questo lo potete fare anche via mail. Esatto. likewise@ondarossa.info, ci potete contattare, mail, sì, eh. Esatto. Ci potete contattare quando volete qui mentre siamo in live allo 06 49 17 50. Basta, abbiamo detto tutto. Esatto, bando alle ciance, come direbbe mia madre. A green for two, Rosie Payne. Questa era bellissima, Rosie Plain con Agreeing for Two. Rosie Plain è basso e è membro storico della band inglese This Is The Kid. E questo album uscirà comunque certi nomi di band mi fanno tagliare che si intitolerà Prize, uscirà diciamo a metà gennaio prossimo. Yes, il 13 gennaio è previsto, per il 13 gennaio del 2023, quindi un'anticipazione. Adesso cominceranno un po' questi, diciamo, lanci sulle nuove uscite che arriveranno l'anno prossimo. Per l'anno prossimo, in qualche modo è un buon modo per passare l'anno, anche vedere che dischi arriveranno. Non lo so, per me era un momento molto bello. Mi ricordo che sì, di solito compravo più o meno sia tutta la storia dei dischi che ti sei perso, perché adesso tutte le riviste cominciano, i dischi dell'anno, quelli che ti sei perso, quelli che dovevi ascoltare per forza, che un po' esagerano, però era un buon modo anche per vedere effettivamente se c'era qualcosa che ti era sfuggita dall'ascolto. E poi con i stanno arrivando, Eccoli che arrivano. Cioè, quindi è questo momento dell'anno un po' particolare. Noi lo faremo in altro modo, like, quasi, a parte che lo facciamo sempre, sì, lanciamo sempre musica che ha da venire, come si suol dire, o che è appena arrivata, oppure qualche volta, come ci succede, magari ci sono degli album che abbiamo messo un po' da parte perché non ci sembravano, non riusciamo mai a infilarli nella scaletta giusta, e poi ricicciano. E poi ricicciano, sì. In realtà abbiamo messo tutta roba di quest'anno. Lei, comunque, dedichiamo due parole perché secondo me è una bravissima artista. Sentite che già come siamo rilassati. Ci siamo già rilassati. Mettetevi questo disco. Ai dischi suoi precedenti, perché in realtà lei non, appunto, non è che ha pubblicato da adesso. Questo è il suo quarto album, è il suo quinto, uscirà il suo quinto album in studio, quindi ne avete quattro da recuperare nel frattempo fino a gennaio. Prima, diciamo, di questo nuovo album che arriverà, sono usciti due singoli, appunto quello che ascoltate in sottofondo è quello che abbiamo ascoltato prima, e nel pezzo che avete ascoltato c'è anche un'altra, diciamo, compagna di band che si chiama Kate Stables, che è anche nel video, poi molto carino tra l'altro, di questo che accompagna questa canzone. E c'è Alabaster e The Plume al sax. E tra l'altro, se volete fare una cosa divertente in questo periodo di regali assurdi, pazzi, inutili, volevi dire? Perché è uscita un'edizione fichissima. È uscita un'edizione in vinile arancione, con la copertina traslucido arancione lampione, che non so, l'arancione lampione, con un'agenda da parete che è stata disegnata da Rosie stessa. Quindi, questo ci dà anche la possibilità di regali indie. Sì, esatto, e ci dà anche la possibilità di segnalarvi questo diciamo collettivo che si chiama Dinked Edition, ed è un .co.uk, ed è un collettivo di artiste, artisti, artistu indipendenti che diciamo appunto promuovono delle serie limitate di piccole tesori, no? Soprattutto in vinile. E quindi, insomma, Rosie Plain farà uscire un'edizione limitata anche di questo, come diceva Pinklo, di questo lavoro. Quello che abbiamo in sottofondo è Help. Allora, io lo chiedo a lei, perché capite, abbiamo un non c'ho la scaletta davanti quando siamo in onda, perché ce l'ha la donna il computer, quindi non so. Help dice Rosie che è la sua canzone preferita del nuovo disco che verrà, che non abbiamo ascoltato. Prossimo pezzo, però. Prossimo pezzo, Lua, That's My Girl. Who's this changing up the game? Hold on, say him in your baggy denim jeans and tell him how it is and let it rain. Older, get yourself all up in your fears. Now guess what? Maybe you'll find your love from the inside. She be running wild, you can't miss her. One with the juice, all the big eyes. She's so on fire, you can't touch her. Maybe you'll find your love from the inside. She be running wild, you can't miss her. Her. She's on fire, built herself up, things are looking brighter. what a stunner. Don't need no designer. Make you wanna act up, make you wanna wife up. Woke up a goddess on your chain, looking so gorgeous in your feet. I don't know when the sun came, feels so good in your skin. Talking no face, no case. Got your head straight, no game, no fright. Have to think about it. Running around the city, that's my girl. Now I guess what? Maybe you'll find your love from the inside. She be running wild, you can't miss her. One with the two stars, a big eye. She's the one fire, you can't touch her. Maybe you'll find your love from the inside. She be running wild, you can't miss her. The one making everybody know why. You can't, you can't. She's the one fight, you can touch her. Make you find your love from the inside. She be running wild, you can miss her. The one making everybody know why. You can, you can, you can touch her. L'R&B ci trova sempre d'accordo, Pinco. Sì. No, su quello non ci sbagliamo. Lua, that's my girl. Anche lei ci trova molto d'accordo. Si scrive, ve lo dico perché la pronuncia è un po' diversa da come si scrive, L-O-I-E. Ed è questo pezzo tratto dall'EP che presto dovrebbe uscire, però non so ancora il titolo. Sì, sì, no, non lo so, no, non c'è il titolo. È, diciamo, un po' un rimpallo di tutto questo lungo anno in cui sono usciti diversi singoli. Esatto. Nelle interviste l'ha detto, insomma, tra virgolette, se fate i bravi forse un EP uscirà, ma visto che siamo allo scadere dell'anno probabilmente forse ce lo regalerà l'anno prossimo, ma chi lo sa. E, no, in realtà è annunciato, perché lei dice che Perfect è la prima canzone dell'EP, quindi immagino che una scaletta ideale c'è. Esatto, una scaletta ideale c'è. Giovanissima, interessante, 22enne, sì. Chitarrista, cantautrice, cinese della comunità, no, non mi guarda, di Trinidad. E vive al sud di Londra. In realtà questa settimana non vi stiamo dicendo di dove sono gli artisti, ma perché tanto sembra che abbiamo messo una sedia a Londra e non ci siamo più molto a me. Sì, un po' Bristol, un po' Londra, Londra, Bristol. Andremo anche in Messico, però. Dai, andremo anche in Messico perché tanto ci piace viaggiare. E però guarda, io ascolterei R&B tutto il tempo. Infatti peccato che non è ancora uscito un disco. Lo aspettiamo con molta attenzione. La sua produzione è molto semplice, molto, sì, diciamo, neat, no? Molto pulita. Esatto, senza avrei detto la stessa, no? Cosa, minimale. Le sue, pulita, diciamo, ispirazioni sono Eva Cassidy e Jill Scott. Quindi, insomma, brava Jill Scott. Quando l'ho letto ho pensato, guarda Jill Scott, una giovane, sì, che si ispira, sì, a Jill Scott. Esatto. Niente male. E quindi, insomma, noi aspettiamo questo EP e vi invitiamo, insomma, ad andare a spulciare un po' in rete le varie cose che ci sono, soprattutto sui vari video di sue performance. Insomma, potete trovare molte cose per dare un'occhiata. Siamo in super orario, 19:33. Ricordiamo che dopo di noi ci saranno a questi microfoni Note Cose Città e poi la nuova trasmissione di Radio Onda Rossa Semilla. E canzone, facciamo un bel saltino, facciamo quindi un bel non vi spaventate, non fate come ho fatto io quando l'ho sentito in scaletta, non vi spaventate. Deep Stays Down, Lacking Poet. There's a bullet in the gun. The gun went missing. Suspicion blew up like a shotgun shell. Zip in your lips. Keep the truth in prison. Gonna throw it. in the bag, the bag's in the river runs deep, and the deep stays down, but I got your eyes. The lies getting bigger, don't lead them to the needle in the haystack. The deep stays down, the deep stays down, the river runs deep, and the deep stays down, the deep stays down, the deep stays down, the river runs deep, and the deep stays high. The trap got sprung, I read it in the paper got red all over this town. The jury's still hung, got a snake on savior who's trying to catch a fox in the in-house now. The deep stays down, the deep stays down, the river runs deep and the deep stays down. The deep stays down, the deep stays down, the river runs deep and the deep stays up. Sun just beats. Who they gonna blame? Who's it gonna pay for every single secret that the river don't keep? Larkin Poe, Deep Stays Down, tratto dall'ultimo album Blood Harmony, uscito quest'anno per la Tricky Woo Records. È uscito Mommo l'11 novembre, quindi esatto. adesso. E Larkin Poe è... Allora, cioè, comunque c'è una storia sul nome fichissima. Molto, vai. Cioè, nel senso che il nome è andato dal soprannome che aveva il loro trisavolo, che sarebbe bis nonno. E dal fatto che loro hanno una lontanissimissima parentela con Edgar Allan Poe, lo scrittore, e quindi l'hanno messa in evidenza. Vabbè, certo, ma vantatene. In realtà queste musiciste che fanno roots rock, si potrebbe dire, insomma, io non amo moltissimo l'arrangiamento della parte finale del no pezzo, però quella iniziale invece la parte roots è molto più figa. Esatto. In realtà sono... no, la parte finale è un po' hard rock anni 90, sì. Che dici vabbè, è no così, dai, perché ti tocca pure quello. Sono le sorelle Lovell, che in realtà non sono nuove all'esperienza musicale. Ma sono che... da un sacco di anni. Loro sono di Atlanta, quindi siamo andate in America per un momento. E in realtà avevano iniziato con tutte e tre le sorelle cantavano: Rebecca, Megan e Jessica, e avevano fatto un gruppo nel 2005 si chiamava le Lovell Sisters. Esatto, Lovell Sisters. Beh, poi un cognome che si presta. Poi Jessica evidentemente voleva fare altro, ma invece loro volevano fare musica. Quindi poi nel 2010, quando hanno sciolto la band, che comunque ha fatto due dischi autoprodotti, quindi cioè nel senso hanno fatto anche delle tournée, quindi sono state in giro. E Rebecca e Megan hanno continuato insieme, hanno trovato, diciamo, questo nome che racconta un po' la loro storia particolare della famiglia, e si sono rimesse a suonare e hanno pubblicato diversi dischi, il primo nel 2014 che si chiama Keen. Quindi sì, siamo al sesto album in studio, insomma, è, appunto, come dicevamo, hanno cominciato con un bluegrass americana, quindi un po' più, diciamo, folk, e come potete ascoltare anche in sottofondo adesso sono molto più rock, molto più, diciamo, su questo stile che non ci fa impazzire. No, non ci fa impazzire, ma noi, esatto, interessante. Comunque ci piace mettere musica più varia possibile a Likewise, perché sappiamo che le nostre ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatori ascoltano, penso, la qualsiasi, o comunque potrebbero ascoltare la qualsiasi, quindi cerchiamo anche in qualche modo di variare per quello. E ovviamente erano in tour in Italia, ma noi non lo sapevamo, perché quando mai, cioè, arriviamo sempre dopo. Non sempre, dai. Un po' dopo, alle volte, su queste date, ma sono state qua neanche da tantissimo, il 4 novembre, proprio a promuovere questo ultimo disco che è appena uscito. Diciamo che, vabbè, a Madonna non particolarmente ci è mancata questa data, perché non credo non ci saremmo andate. Che saremmo andate a vederle, però dai, tutto sommato, comunque l'attacco del pezzo che abbiamo messo secondo me era molto bello. Molto bello. Prossimo pezzo, cambiamo stile, andiamo in Messico. Lei si chiama Silvana Estrada e il pezzo si intitola Brindo. Brindo por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar. Brindo por esta fuerza al caminar, por la vida y por el mar. Brindo por las almas que se fueron dejando en su camino claridad. Brindo por la simple idea del viento, luchando contra un viejo temporal. Brindo por la gente que nos salva en cada beso lento y de verdad. Brindo por encontrar donde quepa tu amor y mi alegría. Brindo por devolvernos la sonrisa y de a poco que se haga brisa. Brindo por el río y el silencio, por regresar a casa aunque esté lejos. Brindo por cruzarme en tu camino y así mi voz vuelve a tener sentido. Brindo por hacer tu piel destino y por volver a ver a los amigos. Oh, oh. Para regresar a casa aunque esté lejos. Brindo por cruzarme en tu camino y así mi voz vuelve a tener sentido. Brindo por hacer tu piel destino y por volver a Silvana Estrada, Brindo, molto esatto, molto classico. E, non ha, lei è giovanissima, cioè abbastanza giovane, nel 97, una musicista e cantautrice americana che ha pubblicato 3 dischi, è figlia di luthai, ha iniziato a suonare ovviamente giovanissima, ha 16 anni, è stata ammessa a un programma di... Abbiamo detto americana o messicana? Messicana, che ho detto americana? Sì, no, messicana. È scappato. Vabbè, ho sbagliato, perché è scappato, ho sbagliato. E, ha è stata messa ad un programma jazz e mentre studiava ha iniziato a scrivere canzoni e a suonare il quattro venezuelano. Il quattro venezuelano, che non so se per esempio è lo strumento che stava anche esattamente in questa canzone qui, perché non avendo il libretto in mano non ho potuto guardare, però è una piccola chitarra che è accordata solitamente una quinta sopra la chitarra, almeno le prime quattro corde, con la particolarità che la prima corda è un'ottava sotto. Quindi, un po' come una viola. Esatto, cioè un suono, ed è, vabbè, ha una cassa, ha la forma quindi della chitarra, un po' più piccola, quindi diciamo la cassa armonica è quella. E lei suona tantissimo questo strumento, quindi poteva essere anche quello che abbiamo sentito nella canzone. Ha pubblicato un disco d'esordio che si chiama Marcita a gennaio di quest'anno, e la canzone che invece che abbiamo ascoltato era tratta dal suo ultimo EP che si chiama Abraso. È stata affermato circa due anni fa, nel 2020, con un'etichetta americana, la Glassnot Records, ed è diventata la prima artista latinoamericana scritturata dall'etichetta. Tutto è detto. Ho detto tutto. Brava. Sei stata bravissima. Hai snocciolato la vita di Silvana Estrada in due minuti. Perfetto. Però è una sonorità bella, a me poi piace in realtà sentire cantare in questa lingua, che trovo molto accogliente, forse perché è molto vicina a noi in qualche modo. Disco ha 13 tracce, mi sembra, c'è questo EP, quindi andatela a scoprire. Assolutamente. Sapere. Silvana Estrada, prossimo pezzo. Prossimo pezzo, Time Warp, Lupron. Time Warp Lupron, questo pezzo è tratto dall'album che si chiama Spiral World e c'è un sottotitolo: One Must First Become Aware of the Body. Uno deve prima essere consapevole del proprio corpo. Kay Loggins, che è l'artista che si nasconde sotto questo nome, Time Warp, è un artista che ha base a Brooklyn. Nel mondo dell'elettronica, anche nel DJing, da un po' di anni. Spiral World è, diciamo, prende il nome da lo spironolattone, come si dice in italiano, che è un bloccante del testosterone. E Kay Loggins racconta con la musica in questo album anche la sua esperienza di transizione. È un bellissimo album di elettronica, se vi piace il genere. A me mi è veramente, diciamo, è andato in quell'elettronica loop. Piace a me, infatti, pure a me. Assolutamente, ci sono un sacco di livelli, un sacco di loop interessanti, c'è moltissima influenza di musica elettronica, anche classica, neoclassica, c'è del jazz dentro le sue composizioni, quindi è veramente sono dei lavori veramente con un respiro molto ampio, quindi insomma elettronica è anche un po' forse limitante rispetto a quello che riesce a fare Kay Loggins. Infatti questo pezzo sotto sembra quasi improvvisazione jazz. Assolutamente, come dice lei fa bimbo jazz, che è una bellissima espressione. Prossimo pezzo, che ore sono, Pinclo? 19:51, siamo in super orario, pezzo numero 9 della scaletta allora. Doichi, Stressed. I must be down, I must be stressed. I got like 13 years of age that I ain't still got off my chest. It must be so much more to life if I had diamonds and bullets. I must be stupid, fucking shady. Must be down, I must be stressed. I must be cooler than glaciers. I'm straight as the lines on my paper. I must be out of my nature. Put that on my Lord and my Savior. I must be ready for more, ready to go. Universe spoke. I must be. If I had diamonds and bullets, I must be stupid, fucking shady. Must be down, I must be stressed. I must be. My regrets, I must be down, I must be stressed. I got like 13 years of age that I ain't still got off my chest. It must be so much more to life if I had diamonds and bullets. I must be stupid, fucking shady. Must be down, I must be stressed. I must be lost in my regrets. I must be down, I must be stressed. I got like 13 years of age that I ain't still got off my chest. It must be so much more to life if I had diamonds and bullets. I must be stupid, fucking shady. Must be down, I must be stressed. I must be. I got my shit, okay. No, I got on Vetmont. Koichi Stressed dall'EP intitolato She, Her, Black Bitch, uscito ad agosto di quest'anno. Personaggio interessante. È uscita con un EP che si chiama Oh, The Places You Go, che ha prodotto, autoprodotto e realizzato un paio d'anni fa. Ha avuto delle recensioni pazzesche e in un paio d'anni è riuscita a farsi scritturare da una etichetta major per incidere questo EP. In una intervista molto, molto carina che ho trovato in giro, racconta di avere passato una bruttissima esperienza a scuola, vittima di un bullismo fortissimo, perché si sentiva lei si sentiva fuori diciamo da qualsiasi schema, quindi completamente isolata nell'ambiente scolastico, e Doichi è diventata la sua doppia identità, il suo diciamo alter io, con il quale in qualche modo poi si è identificata ed è diventato il suo alter ego anche musicale. Step before me, she's so persuasive and marijuana. She's so flirtatious. How does it feel to be so persuasive and marijuana? She's so flirtatious. How does it feel to be you? E anche qui il secondo pezzo ci ha creato difficoltà. Infatti io pensavo che fosse questa alla fine, ero convinta che avessimo scelto questa, ma non importa, va bene uguale, va bene così. Dai, che siamo super in orario e direi che chiudiamo la puntata di questa sera. 29 novembre, ricordiamo che siamo in diretta sulle 87.9 di Radio Onda Rossa. Io non... Sì, poi lo diciamo. Ok. mi dice cose, poi lo diciamo che c'è la scarceranda nuova, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici penso un po' lo sappiano già, ma occorre ribadirlo, anche perché è arrivato il momento di comprare l'agenda, più o meno, anche di comprarla per regalarla. Poi ricordate che la comprate e tutte le copie, poi questo permette di mandare le copie in carcere senza costi per nessuno, come regalo. Quindi assolutamente un regalo per tutte, tutti e tutto. Prossimo pezzo, loro si chiamano The Paranoids, BWP. The Paranoids, BWP, tratto dall'album uscito per la Third Man Record. No, a volte sembra che siamo in diretta su una radio inglese, visto che parla l'album si intitola Talk Poi Talk parlo Talk. Io ed è finita. Ovvio. È una bella diciamo un bel collettivo, una bella band. Loro si conoscono, raccontano. Ah, sai cosa mi è venuto in mente? Perché stavamo parlando fuori onda, gli stavo raccontando che sensazioni mi stava dando questo pezzo. Questo era sembra uno di quei pezzi che stai facendo le prove in studio. No, è vero, se ci pensi anche il finale, che ha quella batteria che chiude così, sembra uno di quei pezzi, cioè, no, che stai appunto in una stanza, che stai provando, no? Che stai facendo musica. Ancora non hai... No, ma non perché è completo o non completo, dico quella sensazione lì di intimità. Brava, in realtà The Paranoids parlano di loro stesse così, ecco, nel senso che dicono noi siamo veramente una, diciamo, un gruppo da sogno, nel senso per noi stesse, nel senso che dicono siamo tutte sorelle non biologiche, parlano proprio così di loro stesse, quindi dicono girl power. Cioè, e ci conosciamo da più tempo di quanto non ci conosciamo, sono molto giovani. No, pensavo con i nostri parenti reali, che a me succede anche quello, devo dire. No, che in qualche modo hanno passato più, insomma, più della vita del tempo che non si conoscevano, perché sono giovani. Benissimo, si sono incontrati a scuola, in particolare la voce e le tastiere Laila Hashemi e Lexi Funston, che è chitarra e voce, ed erano inseparabili a scuola. Poi hanno incontrato sempre a scuola, un po' più tardi, Stas Lindes, che è basso nella band e anche lei canta, e a un certo punto gli serviva una batteria, vabbè, hanno trovato a lui, però insomma David Lewis dice vabbè se integrava bene, però insomma vabbè. E quindi insomma, no, in realtà è un gruppo molto affiatato, è molto divertente, questa cosa si sente molto nell'album che hanno inciso appunto per la Third Man Records. E niente, hanno girato, suonato un po', diciamo, prima della pandemia, poi si sono fermati per la pandemia come tutti, e poi hanno tirato fuori questo album appena hanno potuto. E quindi diciamo che questi erano i nostri consigli d'ascolto musicali di questa settimana. Abbiamo spaziato da tanti generi diversi, come ci piace fare qui a Likewise. Vi ricordiamo che troverete come sempre il podcast sul sito della radio più o meno nella giornata di domani, ora più ora meno, e trovate tutti i nostri podcast sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, dove trovate anche tutti i modi per poter aiutare la radio a vivere. Assolutamente. E quindi a sottoscrivere per la radio, come vi ricordavamo prima è uscita Scarceranda, quindi tenete d'occhio anche il canale Telegram della radio, magari se non ci siete iscritti iscriveteci, perché poi a breve ci saranno tutte le presentazioni dell'agenda, quindi troverete il modo per materialmente averla tra le mani e non ve lo fate scappare. Sono le 20:04, noi sappiamo di lasciare il mixer in buone mani. Tra poco forse. No dai, cioè, l'hanno annunciata la trasmissione, no, le cose città sono un po' in ritardo, sono un po' in ritardo, di solito ci cacciano sempre, invece noi adesso possiamo sparlare male di loro perché non sono al di là del vetro. Ma l'hai messa la nostra sigla? Non la sento. Eccola. Poi facciamo il piss, visto che non ci sono. No, quindi a parte gli scherzi, e dopo Note Cose Città c'è la nuova trasmissione musicale di Radio Onda Rossa che si chiama Semilla Musica dal Mondo, quindi alle 22:30 c'è Morfire. E alle 22:30 c'è Morfire, quindi insomma restate con le orecchie appiccicate alla radio fino a stasera. Ma anche se fate altre cose, certo, cioè, ho detto le orecchie, e staccate l'orecchio, fate un'altra, lasciate la radio accesa, perché il martedì qui non si scherza. Il martedì qui non si scherza, in realtà Radio Onda Rossa non si scherza mai, ascoltatela, cercatevi anche gli approfondimenti, i podcast, i redazionali, se vi siete perse qualche notizia o volete approfondire qualche tema che leggete sui giornali. Sono le 20:05, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, che già sarà dicembre. cioè un po' fa paura. Capita, succede un po', fa paura. Ah, tra l'altro noi abbiamo un sacco di cose. Abbiamo un dicembre frizzante. No, però è vero che scoppiettante. Possiamo spoilerarlo, lo spoileriamo, dai. Vorremmo fare una puntata insieme a Note Cose Città di chiusura prima delle, diciamo, vacanze, per chi ce le ha, o comunque prima del, insomma, delle festività natalizie, che comunque sono di calendario, quelle ci sono a prescindere da chi si possa riposare o meno. Quindi faremo una puntata insieme con Note Cose Città, esatto. Quindi non so cosa verrà fuori, qualcosa di però qualcosa verrà fuori, ci stiamo pensando. Questo era lo spoiler di questa settimana, vi salutiamo, passa, è tardissimo, ciao ciao ciao ciao ciao, martedì ciao. Prossimo, buon ascolto di Radio Onda Rossa, ciao. Love it, I've been seeing